Dietro la notizia di Gianfranco Fabi. Buongiorno, ben ritrovati ai nostri ascoltatori. Oggi parliamo di piccole imprese, di piccole e medie imprese, quelle che costituiscono l'ossatura, la spina dorsale dell'economia italiana e che soprattutto in questa fase di crisi finanziaria si trovano di fronte a problemi di calo della domanda da una parte, di rischio di difficoltà di accesso al credito dall'altra, maggiore competitività sul fronte internazionale, tanti problemi che sembrano accumularsi e che richiederebbero un intervento anche da parte del governo, così come si fa in altri paesi dove magari è più forte la grande impresa e dove gli interventi sono indirizzati alle grandi imprese. Parliamo di questo argomento con Daniele Marini. Buongiorno Marini. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Buongiorno, Marini è direttore scientifico della Fondazione Nord-Est, è docente di sociologia del lavoro a Padova, ha scritto oggi sul Sole 24 Ore un editoriale dal titolo Gli interventi che servono all'economia in affanno, un editoriale in cui appunto si passa un po' in rassegna questa problematica delle piccole imprese partendo dal dato di fatto che c'è un po' un fiato corto in questa fase da parte delle imprese, da parte delle piccole e medie imprese che più degli altri settori economici sentono appunto le difficoltà. Daniele Marini, quali sono le sensazioni che vengono, soprattutto guardando poi al territorio, alla realtà, non solo a quella del Nord-Est, ma alla realtà italiana? Diciamo che i segnali e il problema vero è che questa situazione sta avendo un fattore di accelerazione nel senso delle difficoltà che si possono cogliere appunto anche senza realizzare grandi ricerche, ma semplicemente sfogliando i quotidiani dei diversi territori. In questi mesi, in queste ultime settimane, anzi, si vedono allungare le liste delle imprese, delle piccole e medie imprese che soffrono, tenendo presente poi che più del 90% del nostro sistema produttivo è fatto dalle imprese al di sotto dei 10 dipendenti e quindi questi segnali cominciano a diffondersi, ad avere una platea sempre più ampia di imprese che soffrono o che cominciano a soffrire. Ecco, questo però senza nello stesso tempo voler creare allarmismi in una situazione in cui la fiducia a livello nazionale e internazionale segna il passo, perché dobbiamo ricordare che comunque il nostro sistema produttivo è un sistema, soprattutto quello manifatturiero, che negli anni scorsi ha intrapreso un significativo percorso di trasformazione, verrebbe quasi da dire di metamorfosi. D'altro canto basta solo ricordare come pochi anni fa molti analisti fossero lì a decantare o a cantare meglio la morte dei distretti industriali piuttosto che del Made in Italy o che avremmo terminato i processi di industrializzazione a favore di quelli di terziarizzazione. Invece negli anni scorsi abbiamo scoperto come esattamente queste realtà sono quelle che hanno saputo meglio di altre competere a livello internazionale, e non a caso abbiamo parlato di multinazionali tascabili, di piccole e medie imprese che si sono accresciute e che sono state in grado di coprire nicchie di mercato a livello mondiale, a livello internazionale. Ecco, grazie, ricordo agli ascoltatori il numero verde 800 24 00 24. Vorrei proprio su questo punto, sul fatto della trasformazione delle imprese a cui accennava Marini, c'è stata una trasformazione indubbiamente, c'è stato un processo di ristrutturazione, un avvio abbastanza forte anche all'innovazione, sia di processo, sia di prodotto, sia di accesso al mercato da parte delle imprese, soprattutto delle medie imprese, che negli ultimi anni hanno fatto segnare anche dei risultati particolarmente positivi sul fronte delle esportazioni, sul fronte della ricerca di nuovi sbocchi produttivi, di nuovi mercati. Ecco, questo processo però è un processo che in quanto tale va sempre accompagnato, rischia di avere dei contraccolpi abbastanza sensibili da quello che sta avvenendo sullo scenario internazionale. Forse una maggiore attenzione anche da un punto di vista delle politiche fiscali, delle politiche di sostegno all'innovazione in questa fase sarebbe non solo necessaria ma urgente. Daniele Marini. Assolutamente sì, basta vedere anche i dati che annualmente Unioncamere e Mediobanca forniscono sulle analisi dei bilanci delle medie imprese e si può vedere come esista una sorta di forbice fra le capacità di performance economiche delle medie imprese rispetto alle grandi, che sono molto più elevate delle prime e delle seconde, e viceversa il carico fiscale va più a carico, mi scuso per il gioco di parole, nei confronti delle medie imprese piuttosto che sulle grandi. Allora, anche questi sono, il tema fiscale è sicuramente uno degli aspetti cruciali sul quale affrontare delle politiche che aiutino queste imprese a cavalcare meglio la situazione. Ecco, perché mentre sul fronte degli interventi di aiuto forse bisognerebbe concordare qualcosa di europeo, sul fronte fiscale l'Italia, il governo italiano ha piena libertà di manovra, tenendo conto ovviamente delle compatibilità finanziarie ed economiche. Sì, la questione vera è che ci troviamo, cioè mentre fino a pochi mesi fa queste imprese erano in grado di sostenere la loro trasformazione perché i mercati internazionali ancora tutto sommato funzionavano e andavano bene e quindi l'export è stato il vero elemento di traino a fronte di una domanda interna che, come è noto, rasentava lo zero. E oggi il problema vero è che oltre a una domanda interna che è data in ulteriore calo, è la congiuntura internazionale che si è fatta critica e quindi c'è questa sorta di tenaglia che avvolge le strategie delle imprese a cui si è fatto come ulteriore peso e carico il problema delle banche, delle politiche delle banche nel essere più attente nell'offrire credito. Ecco, più attente può essere magari un eufemismo per dire che in qualche caso il sistema bancario ha reagito con un po' di nervosismo ai propri problemi, gettando forse i problemi sulle spalle delle imprese. Vorrei sentire un ascoltatore, Alberto da Brescia, buongiorno. Buongiorno direttore, ai suoi ospiti. Io sono un piccolo imprenditore, sono in un consiglio di amministrazione di un'impresa familiare e noi siamo una società patrimonializzata, cresciuta dal punto di vista economico anche quest'anno in doppia cifra, quindi siamo dei fortunati. È altrettanto vero però che abbiamo dei tempi di pagamento tali per cui siamo stati messi in crisi dal punto di vista finanziario e le banche ci hanno detto, dopo periodi in cui non abbiamo mai avuto problemi con loro, ci hanno detto no, questa volta un piccolo finanziamento rispetto a quella che effettivamente la nostra patrimonializzazione ci è stata negata. Voglio fare una seconda considerazione a proposito della struttura delle imprese italiane. Piccolo e bello forse era vero una volta, oggi non lo è più e quindi non soltanto le politiche fiscali dovrebbero essere riviste, ma anche le politiche sulle dimensioni. Noi siamo sotto i 14, i 15 dipendenti e questa è stata una costrizione per noi, vorremmo crescere, siamo stati costretti a fare altre società e quindi a gestire la complessità di un gruppo piuttosto che far crescere un'unica azienda, cosa che evidentemente avremmo preferito per mille e uno motivi. Quindi non so se il responsabile sia questo famoso articolo 18, però permettere alle aziende di crescere e di diventare più grandi della piccola impresa deve andare di pari passo allo smettere di lamentarsi del fatto che le aziende in Italia sono piccole. Questo era il mio intervento. La ringrazio, sono tre testimonianze in una volta sola, una sul fronte dei rischi sui ritardati pagamenti che sembrano allungarsi sia da parte della pubblica amministrazione sia da parte degli altri imprenditori, un'altra testimonianza è sulle banche che stentano a dare crediti in questa fase e la terza su questa difficoltà un po' strutturale delle imprese italiane a crescere anche per i vincoli normativi che incombono sulle aziende di maggiori dimensioni, quindi se si ferma a 14, se si deve crescere, si cresce facendo un'altra impresa. Daniele Marini, non penso di poter parlare tutti e tre i problemi, fermiamoci su quest'ultimo. Sì, questo è effettivamente un caso peculiare, non tanto quello dell'imprenditore che ci ha telefonato, ma proprio del nostro sistema italiano. Perché è vero che in tutto il mondo le imprese quando nascono piccole, però poi negli altri paesi riescono a crescere in tempi molto più rapidi rispetto al nostro paese. E qui sicuramente c'è un elemento che ha a che fare con la normativa e la legislazione nazionale che tende a frenare le opportunità delle imprese a crescere, Peraltro, oltre a questo, c'è anche il fatto che sempre nel nostro paese rispetto agli altri, i fallimenti delle imprese o le difficoltà delle imprese poi vengono, come dire, segnati in senso negativo sia sotto profilo legislativo che sotto profilo sociale, mentre nelle altre realtà, pensiamo al mondo anglosassone, il fallimento, la chiusura di una piccola impresa che poi dà origine magari ad altre imprese più grandi non viene così contrassegnato in senso negativo. Poi c'è anche però un aspetto, diciamo, di tipo culturale che ha a che fare con la cultura tipica imprenditoriale, che è una cultura anche di natura familiare, e qui il tema della crescita si scontra anche con una visione del fare impresa che però in questi anni, diciamo, un poco alla volta si sta superando, proprio perché le imprese che competono a livello internazionale sono spinte a darsi strutture anche di tipo manageriale. Ecco, c'è sicuramente una spinta imprenditoriale da parte della realtà italiana che non è mai venuta meno e che sta appunto crescendo, come giustamente osservava Daniele Marini, anche attraverso delle dimensioni, delle strutture di carattere manageriale, di carattere più ampio. Sentirei Cristiano da Roma, buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno. Sì, buongiorno, sono da Parma, non da Roma. Ah, da Parma, mi scusi. Buongiorno, niente. Io telefonavo in quanto durante lo scorso fine settimana ho partecipato ad un interessantissimo convegno organizzato dai giovani imprenditori di Confabi, in cui si parlava anche dell'imposizione fiscale. È stata presentata un'indagine in cui si presentava un dato che è stato preso dalla platea in maniera scioccante, diciamo così, in quanto il dato che emergeva che, a prescindere da quella che è la situazione finanziaria, di crisi finanziaria attuale, il 65% delle imprese, piccole e medie imprese, si parlava del mondo Confapi, paga più del 50% di tasse grazie al sistema impositivo IRES, IRAP, e il dato ancora più incredibile è che più del 15% delle aziende oggetto di quell'indagine pagava più del 100%, cioè pagava le tasse anche se era in perdita. Alla fine sono state fatte una serie di considerazioni da parte anche di economisti autorevoli, quali ad esempio il professor Pelanda, e la considerazione finale è stata che oggi è fondamentale un taglio delle tasse, perché questo è il metodo migliore per far sì che effettivamente le aziende possano avere un pochino di liquidità in mano in maniera concreta. Grazie. La ringrazio, siamo noi che ringraziamo lei di questa testimonianza. Indubbiamente il taglio delle tasse, la politica fiscale, una politica fiscale che migliori anche il modo di imposizione, perché come diceva l'ascoltatore, che ci siano imprese che pagano più di quanto guadagnano è certamente fuori dalla logica. Marini, cosa sarebbe utile fare? Non c'è dubbio che il sogno degli italiani, diciamo così, oltre a vincere all'Enalotto, è anche quello di avere meno tasse, però il problema è che ci troviamo anche di fronte a un debito storico del pubblico e dello Stato che, diciamo così, impedisce nell'immediato quel taglio drastico. Allora, tra riuscire ad avere grandi risultati immediati oppure averli nel medio periodo, forse già oggi sarebbe possibile fare alcuni interventi che potrebbero non essere onerosi per lo Stato, appunto per far fronte al debito pubblico, che comunque c'è ed è molto oneroso, come per esempio quello di poter detassare gli utili reinvestiti nell'impresa, piuttosto che abbassare l'aliquota per quello che riguarda le spese di rappresentanza, che comunque sono spese legate alla produzione dell'azienda, oppure ancora, visto che siamo in prossima scadenza al 30 novembre, anche semplicemente abbassando di qualche punto l'aliquota che oggi è il 98% dell'anticipo per la dichiarazione dei redditi. Ecco, già questo consentirebbe alle imprese di disporre già subito, fin d'ora, di un certo spazio di liquidità da poter utilizzare negli investimenti alle imprese, quindi sentirsi meno soffocate. Grazie mille. Fulvio da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Ma anche io sono un piccolo imprenditore, impresa fondata nel 94, 10 dipendenti, A noi la crisi finanziaria non tocca perché non abbiamo mai distribuito utili ai soci, quindi anche al sottoscritto, e oggi l'azienda si autofinanzia per la sua attività. Devo dire che questo comportamento virtuoso non è affatto comune ai miei colleghi. Spesso nella piccola impresa si drenano utili per alzare il tenore di vita dei piccoli imprenditori, e quindi questa è una forte critica che faccio ai miei colleghi. Poi c'è un altro aspetto. Il Sole 24 Ore, penso alcuni mesi fa, ha pubblicato una statistica per cui le società di capitali, SRL SPA, spesso portano bilanci in pareggio e in perdita. Francamente questa cosa qua è non sospetta di più, quindi diciamo che le imprese hanno al loro interno delle forze, ma spesso queste forze vengono estratte per ragioni tutto sommato inconfessabili. La ringrazio, non confessiamo queste ragioni, ma penso che tutte possono capire quello che lei vuole dire, e anche il fatto che, come hanno dimostrato gli ultimi avvenimenti, un po' la spinta a una finanza fine a se stessa è stata forte e ha coinvolto anche qualche impresa che aveva come missione quella di essere invece un'impresa produttiva, un'impresa manifatturiera, e questo distacco della finanza dall'economia reale è stata in fondo una delle cause della crisi attuale, una crisi che tuttavia è nata oltre Atlantico, non certo da noi, ma che da noi comunque ha degli effetti molto pesanti. E ricordare la missione propria dell'imprenditore, che è una missione appunto di creazione, di costruzione, di realizzazione, e anche di mettere insieme delle forze diverse, organizzare il lavoro, è certamente utile e importante. Poi le critiche verso gli altri imprenditori, ognuno è libero di farle e ognuno è libero anche di sentirne il peso, per quanto possa valere per ciascuno di noi. Sentiamo Leone da Napoli, buongiorno. Buongiorno, io volevo dare una mia piccola idea come ex imprenditore, ora sono in pensione, ma quello che è importante, cioè, vedo che il governo vuole dare dei soldi alle banche per poter finanziare le piccole e medie imprese, ma è una linea che non condivido, in quanto le banche possono fare del cattivo tempo nei confronti delle aziende e dare il credito a tassi che le imprese non possono sostenere, mentre sarebbe una cosa giusta, per esempio, finanziare i confidi, come c'era l'Unione Industriale. Potrebbero avere anche la Confcommercio, la Confartigianato, i confidi che basano il credito sul prime rate, contribuendo al tasso di interesse, e garantire eventualmente anche un tetto maggiore di credito. Questo darebbe respiro alle aziende senza essere soggette al ricatto delle banche, vuoi il credito ma a questo tasso. La ringrazio, ma indubbiamente non bisogna però dimenticare che le banche hanno comunque interesse che le imprese siano sane, perché hanno dei crediti a restituire alle stesse banche, quindi guardare un po' con un'aria manichea tutto il bene da una parte e tutto il male dall'altra forse non è del tutto positivo, ma lascerei la parola finale a Daniele Marini. Sì, direi che anche quest'ultimo intervento segnala, come dire, quali possono essere le diverse strade che si possono percorrere. Condivido ovviamente che, come dice lei, il bene non sta solo da una parte e il male da un altro, chiaramente. Certo è che quanto più si riesce ad arrivare direttamente alle imprese sotto questo profilo, forse sarebbe ancora meglio, ma in ogni caso credo che quello che sia da sottolineare è, in questi frangenti in cui anche le istituzioni politiche devono prendere delle decisioni, sarebbe assolutamente fondamentale che queste decisioni venissero prese il più in fretta possibile, proprio per evitare di far sì che il disagio, il malessere, il malumore si diffonda e quindi poi sia sempre più difficile tenerlo sotto controllo. Allora bastano anche poche misure, diciamo pochi segnali, ma concreti e immediati, per provare a tenere sotto controllo questa situazione e ridare fiato alle imprese, soprattutto attraverso una maggiore liquidità. Grazie mille. Il problema appunto della fiducia è un problema fondamentale. Ridare fiducia nell'intero sistema, in tutte le sue componenti, mi sembra un obiettivo che ogni governo, ma ogni persona, ogni gruppo sociale dovrebbe avere. Ringrazio Daniele Marini, direttore scientifico della Fondazione Nord-Est, che è stato con noi, Carmelo Laricelli in regia. Ringrazio gli ascoltatori e tra poco, viva voce, si parlerà di testamento biologico, l'appuntamento con Dietro la Notizia per domani.